miseria. Noi pessimi soggetti, più lo male franchi, fastidiosi come insetti, dannosi come confetti, infetti, lo solo scono senza baggy, la stona sempre alta nei progetti, ribaltiamo i tuoi concetti, obsoleti, ormai vecchi, sorpassati, king declassati a semplici soldati, chili di merda, stratificata, rinvenuta come fosse, insieme a Britney nella toxity, forti ti destino perché mi sei sempre avverso, forti ti sistemi in ogni rima, in ogni verso, schiavo del progresso e nemico di me stesso, libero la mente, fumo un joint e mi stendo. Lulo, Mano e Franchi come due sballate al college. Imperia sulla scena, fiera se la crema college. Owner come manager, tecnica folle. Air caravonica, atomica, bomber. So, in ella sulla traccia e lo sai. I smoke and fly con il prodotto style. Dai, lo so che ti piace la roba che spingo. So, in ella sulla traccia e lo sai. I smoke and fly con il prodotto style. Dai, lo so che ti piace la roba che spingo. Il mio fumo è panca bestia, gira sempre con la cresta in una quantità modesta, adoro la mia scimmia e qua che la spodesta, l'esta resta sulla spalla in festa, ieri ho fissa in testa malmessa, merito e pesta, mangio pesto fresco, scende la saliva, lì va a sul presto, spodesti l'MC fresco, fresco innesco l'autodistruzione, codice 93139, premo il bottone, rancore in espansione, bomba dal tuo potenziale dall'alto come agente orange, la parola su parola non cibo come una scoria, preparatevi al peggio perché Simo sta esplodendo, sarà una pioggia di merda perché quella che ho dentro è la calcio in culo della storia. Faccio rap per passione, né per fama né per gloria. Crostante allucinogeno infisso nella tua memoria. Io lo cavernicolo nei vicoli d'imperia. So, in ella sulla traccia e lo sai. I smoke and fly con il prodotto style. Dai, lo so che ti piace la roba che spingo. So, in ella sulla traccia e lo sai. I smoke and fly con il prodotto style. Dai, lo so che ti piace la roba che spingo. Siamo quelli messi alla prova, ci trovi sui giornali coi processi per droga. E allora, qual è il problema? Spiegamelo ancora. Fotti il sistema e non dire una parola. Pugni chiusi, stretti nelle tasche, per nasconder brasche, per fare in fretta andarsene. Padroni di nulla, servi di nessuno. Zona ex feriere, zoccolo duro. Imperia è come un bunker, diffida di chiunque. E lei che ti distrugge e a far cazzate induce. Buio costante senza luce, mangia più che puoi e non lasciare bucce. Yulo, Mano e Franchi, colonne portanti, porta i contanti e porta gli altri tanti. Atomica Bombers, Atomica Bombers. Questo skit alcuni lo sentiranno così, alcuni lo sentiranno così. È una sorpresa. Cosa? E ora il messaggio è questo. Due punti. Si le finus dura la festa la a porra gala a sa de ilu malumu du bomu no kotoya sa banu sene na mira nu sene ka onu sene no kne na